Platone, Repubblica, libro primo. Socrate racconta: sono andato ieri al Pireo insieme con Glaucone, il figlio di Aristone. Volevo innalzare una preghiera alla dea e nello stesso tempo osservare in qual modo avrebbero festeggiato la ricorrenza. È una festa, vedi, che si celebra per la prima volta. Ti dico subito, la processione organizzata dagli abitanti del luogo mi è sembrata veramente bella, ma non c'è dubbio, quella che solevano fare i traci non era certo meno magnifica. E dopo aver detto la preghiera e dopo aver ammirato la festa, ce ne partimmo per tornare in città. Polemarco, allora, figlio di Cefalo, che osservava di lontano, disse a un suo servo che ci raggiungesse correndo e che ci pregasse di attenderlo. E il ragazzo dietro le spalle mi tirò il mantello, esclamando: «Polemarco dice di aspettare». Mi volsi e gli chiesi dove fosse il padrone. Rispose, «è qui dietro che viene, aspettatelo». «E allora aspetteremo», concluse Glaucone. Non si fece attendere molto Polemarco. C'era anche Adeimanto, il fratello di Glaucone, Nicerato, figlio di Nicia, e altri che non so bene. Certo, tornavano dalla processione. Cominciò Polemarco: «Senti, Socrate, vi siete messi in cammino verso Atene. Si vede che avete intenzione di partire». «Non hai torto», risposi. «Ma la vedi», soggiunse, «questa nostra compagnia? Non siamo in pochi». «Come no? Allora, o riuscite a prevalere su tutta questa gente, o dovete restare qui». «C'è ancora un'altra e unica risoluzione: cercar di persuadervi che va bene lasciarci andar liberi». «Ah», continuò lui, «e riuscirete a persuadere chi non vuole ascoltare?» «No, certo», rispondeva Glaucone. «E allora fate conto che non vi daremo udienza e provvedete in merito». E poi Adeimanto: «Ma allora, è certo, nemmeno sapete che questa sera ci sarà una fiaccolata a cavallo in onore della dea?» «A cavallo!» esclamai. «Oh, questa è una novità! Tenendo le fasce in mano, se le passeranno l'un l'altra a gara stando a cavallo, come intendi?» «Così», rispondeva Polemarco, «ma c'è ancora una festa notturna, vale la pena vederla. Dopo pranzo andremo un po' fuori a guardare. Avremo anche modo di incontrare molti amici e discorreremo tra di noi. Insomma, via, restate, datemi ascolto». E Glaucone: «Non rimane altro che restare». «Bene», conclusi io, «se credi». Fu così che s'andò in casa di Polemarco. Incontrammo pure Lisia ed Eutidemo, i fratelli di Polemarco. C'era anche Trasimaco di Calcedonia, Carmantide del borgo di Peana e Clitofonte, il figlio d'Aristonimo. In casa c'era anche il padre di Polemarco, Cefalo, che mi sembrò assai invecchiato. Era un pezzo che non lo vedevo. Se ne stava seduto sopra uno sgabello e aveva sul capo una corona, il capo appoggiato a un cuscino. Aveva appunto allora fatto un sacrificio nel cortile. Ci ponemmo a sedere accanto a lui. C'erano alcuni sgabelli disposti in giro. Cefalo mi osservò subito, mi salutò e disse: «Non ti si vede molto spesso, Socrate, da queste parti. Non vieni mai giù fino al Pireo, eppure dovresti venire qualche volta. Se, vedi, io fossi in condizione di mettermi in cammino senza troppe difficoltà per giungere al borgo, allora non ci sarebbe bisogno che tu venissi da noi. Verremmo noi allora da te. Insomma, dovresti un po' più spesso farti vedere. Devi sapere che, per me almeno, quanto gli altri piaceri del corpo vengono estenuandosi, tanto s'accresce una passione e un diletto particolare per la conversazione. Su, via dunque, dammi ascolto e continua pure a stare insieme ai tuoi giovani compagni, ma dovresti anche venire qui a frequentare la nostra casa. Sai bene che siamo amici quasi della tua famiglia». E io allora: «Oh, Cefalo, a me piace molto conversare con le persone di un'età assai avanzata. Mi par, vedi, una bella cosa chiedere qualche informazione da chi ci ha preceduti per una certa via, quella che forse anche noi dovremmo percorrere. Si tratta di sapere com'è questa via, aspra e difficile, oppure facile e comoda. Non mi spiacerebbe appunto chiederti un'informazione. Tu sei ormai a quel punto della vita che i poeti chiamano di vecchiezza la soglia. Ebbene, qual è la tua impressione? È qui veramente il punto difficile? Cosa mi sai dire?» «Ti riferirò», mi rispose, «le mie impressioni. Sovente, vedi, dando ragione all'antico proverbio, passo il tempo con amici della stessa mia età. E la maggioranza, quando siamo in compagnia, non fa che lamentarsi. Ogni desiderio è tutto rivolto ai piaceri dell'età giovanile, ogni ricordo fisso ai diletti d'amore del bere, del cibo e a tutti i piaceri che a questi si accompagnano. E quanto grande la loro contrarietà! Sono convinti d'essere stati privati di un bene straordinario. Un tempo sì, era una vita, ora invece nemmeno vita è quella che vivono. E non manca nemmeno chi si lagna, perché la senile sua esperienza non trova il dovuto rispetto dei familiari. Insomma, continue querele contro vecchiezza, causa di sciagure senza numero. Invece pare a me, o Socrate, che questa gente non arrivi a individuare il vero responsabile della situazione. Perché, se vecchiezza fosse causa di questi inconvenienti, io pure mi troverei in condizione uguale. Anch'io sono un vecchio, e quanti pervennero a quest'età della vita sono pure vecchi tutti. Invece ho incontrato già molti che non aderiscono a queste lamentele. Per esempio Sofocle, il poeta famoso. Un giorno mi trovai presente che un tale gli rivolgeva domanda. Sofocle, gli diceva, come va con l'amore? Saresti ancora in grado di star vicino a una donna? E lui, lasciamo stare, amico mio. In ogni caso, con quanta gioia me ne potei fuggir via, proprio come se fossi scappato da un padrone furibondo e selvaggio. E allora mi parve che Sofocle avesse proprio ragione, e tutt'oggi sono dello stesso parere. È un fatto, vedi, che se si tratta di ciò, pace grande e libertà subentrano nella vecchiezza, quando quella tensione che avevano le passioni si distende e si rallenta, venendo finalmente a cessare. Allora si avvera precisamente il detto di Sofocle: siamo al fine liberati da padroni che sono innumerevoli e folli. In ogni modo, di queste querele e del poco rispetto da parte di familiari, una sola è la causa. Non vecchiezza, caro Socrate, ma carattere di singole persone. Se il nostro umore è uguale e tranquillo, anche vecchiezza diventa sopportabilmente lieve. Nel caso contrario, Socrate, vecchiaia e giovinezza, per un uomo simile, diventano parimenti difficili. A me piacquero molto queste parole, e mi venne desiderio di sentirlo parlare ancora. Per incitarlo, seguitai. Cefalo, credo che molti non saranno d'accordo con le tue idee. Penseranno che tu sopporti con tanto facile cuore vecchiezza, non per il tuo carattere, ma perché sei persona assai facoltosa. La gente ricca, vedi, è voce comune, ha molti modi di passarsela. Hai ragione, rispondeva. Effettivamente molti non sono d'accordo, e in un certo senso un po' di ragione ce l'hanno anche loro, non però nella misura che credono. Si verifica qui il fatto di Temistocle. Un certo uomo di Serifo gli diceva offesa e continuava a ripetere che Temistocle non si era acquistata la sua gloria in seguito a doti personali, ma in seguito ai meriti della sua patria. E allora Temistocle, per tutta risposta, gli disse che se lui, Temistocle, fosse stato di Serifo, certo non sarebbe diventato famoso, ma nemmeno l'altro, il suo interlocutore, se ateniese, lo sarebbe diventato. Quest'aneddoto s'adatta perfettamente alle persone non ricche, che sentono come un peso gli ultimi anni della vita. E intendo dire che una natura buona si troverebbe bene trascorrendo in povertà la vecchiaia, come d'altra parte un uomo di carattere cattivo, divenuto anche ricco, non saprebbe per questo trovare un tono d'armonia. «E senti, Cefalo», dissi, «tutta questa sostanza è frutto per la più parte di qualche eredità o te la sei per conto tuo acquistata?» «Quanto ho potuto acquistare per conto mio, Socrate? Cosa vuoi? Si può dire che la mia capacità d'uomo d'affari sia intermedia tra mio nonno e mio padre. Il nonno, che aveva il mio nome, ricevette dai nostri vecchi una sostanza pressappoco uguale a quella che posseggo io, e la fece molte volte più grande. Invece Lusania, mio padre, la rese minore di quella che vi è ora, e per conto mio sarei contento se non la lasciassi diminuita a costoro, anzi un poco più grande di quanto la presi. Ma io te ne ho fatto domanda perché, vedi, mi pare che tu non sia molto attaccato al denaro. La condizione, quasi sempre, di chi non si guadagna lui la propria sostanza. Ma quanti se la sono guadagnata, sono attaccati al denaro il doppio degli altri. È come i poeti, sono innamorati delle loro produzioni poetiche, come i padri incapaci di vedere altro che i propri figli. Alla stessa maniera, chi ha ammucchiato qualche soldo non pensa che è proprio veri, e ciò in parte perché sono il frutto dei loro sforzi, in parte poi anche perché pensano, come tutti gli altri, che il denaro è utile. Tutta gente per questo appunto noiosa e difficile, pronti a cantare le lodi della propria ricchezza. Hai davvero ragione, rispondeva. Sì che ho ragione, dissi, ma mi dovresti aggiungere ancora due parole. Quale secondo te è il bene più grande che ti ha fruttato la ricchezza? Rispose, un bene che, a dirlo così, molti non mi vorranno credere. Devi capire, vedi, Socrate, una cosa. Quando ci si avvicina al punto in cui si sente prossima alla fine, sopravviene un senso di timore e di preoccupazione per cose cui prima non si pensava. Avviene che quanto si racconta circa l'invisibile, per esempio, si dice che chi nella vita è stato ingiusto deve laggiù pagare il fio. Ebbene, fino ad allora si rideva di questi racconti, e invece a quest'età ti sconvolgono l'anima. E se fossero veri? Il vecchio, per una certa debolezza che seco porta l'età, o anche perché ormai si trova vicino alle cose di laggiù e quindi le vede meglio, insomma, il vecchio diventa pieno di sospetto e di paura. Fa allora quasi il rendiconto definitivo e considera attento se ha fatto ingiustizia a qualcuno in qualche cosa. Allora, chi trova nella sua vita un numero grande di ingiuste azioni, spesso si sveglia improvviso dal sonno, come fanno i bimbi, e pieno di terrori egli è. Quest'uomo vive e nulla di buono s'attende. Invece, chi ha la coscienza tranquilla, certo di non aver commesso ingiusta azione, a costui dolce speranza sempre è vicina. Una buona speranza che gli fa lieta l'età estrema, come dice Pindaro. L'ha detto proprio in modo bello, Socrate. Ogni uomo che santamente e giustamente ha trascorso l'esistenza, speranza soave gli nutre, il cuore gli allieta vecchiezza, e seco il conduce speranza che sola il rabbondo pensiero ai mortali governa. Dice bene veramente. Considerando tutto questo, ritengo che molta importanza abbia la ricchezza, non per un qualsiasi uomo, si capisce, ma per chi abbia una natura buona e ordinata. Appunto per il possesso di ricchezza, il ricco non inganna nessuno, neppur contro volontà, e non dice mai menzogna. D'altra parte, il ricco non deve partirsene per andar là, pieno di paura, perché debitore a un dio di qualche sacrificio o a un uomo di qualche somma. Vantaggi certo ne ha ancora, e molti, ma ad esaminarli uno in confronto all'altro, per conto mio, sono d'opinione che la ricchezza sia utilissima allo scopo di cui ti sto dicendo. Chi almeno capisce le cose, caro Socrate. Hai perfettamente ragione, amico Cefalo, ma dovremmo affermare che giustizia sia questa cosa, appunto, semplicemente dir la verità, come fai tu, che il giusto sia il rendere ciò che si può aver preso da qualcuno? Non ti pare che queste azioni talvolta si possano sì compiere secondo giustizia, ma talvolta invece ingiustamente? E intendo una cosa di questo genere. Supponi, un tale prende da un amico, savio ancora, talune armi, poi l'amico diventa pazzo e gliele ridomanda indietro. Certo, si dirà, non è conveniente consegnare una simile cosa, e non si può dire un giusto chi restituisce le armi. Come pure chi volesse dir tutta la verità a chi si trovasse in tali condizioni. Non è mica torto, rispondeva. Ma allora questa non è l'esatta definizione di giustizia, non dir menzogna e restituire ciò che si è tolto. Certo, interruppe Polemarco, seppure convien prestare ascolto a Simonide. Benissimo, rispondeva Cefalo. Anzi, guarda, la discussione ve l'affido. È tempo ormai, debbo attendere a un certo rito. Eh sì, esclamò Polemarco, io sono anche uno dei tuoi eredi, non è vero? Certo, concluse Cefalo sorridendo, e contemporaneamente si recò a compiere il suo rito. Dimmi dunque, continuai, tu che sei l'erede della discussione, in che senso affermi che conviene credere a Simonide per quanto egli dice sulla giustizia? Perché, rispose, il corrispondere a ciascuno ciò che gli è dovuto è cosa giusta. Affermando questo, mi pare che dica bene. E io allora, eh già, bisogna pur prestar fede a Simonide, che uomo sapiente e straordinario. È il suo vero pensiero, o Polemarco, tu certo lo capisci, ma io no. si vede in ogni modo che non vuole accennare a quanto si diceva poco fa, cioè al caso di chi ci avesse fatto un deposito e noi lo si voglia restituire, ma chi lo richiede è diventato pazzo. Eppure costituisce sempre un debito questa cosa che ci fu data in deposito, non credi? Sì, e non bisogna assolutamente aderire quando in condizioni mentali inferme se ne richiede la restituzione. È vero, disse. In conclusione, pare evidente, vuole intendere qualche cosa di diverso quando dice che giustizia è restituire ciò che si deve. Sicuro, un'altra cosa, perché crede che si debba far del bene, nulla di male agli amici. Capisco, dissi, non si tratta più di restituire cose di cui siamo tenuti alla restituzione, come quando per esempio si dovrebbe restituire a qualcuno l'oro affidatoci, ma la restituzione e il recupero sono dannosi, e si verifica il caso che chi recupera quell'oro e chi lo restituisce siano amici. Non dici che Simonide intende in questo senso? Sì, indubbiamente. Senti allora, ai nemici si deve dare il dovuto, è vero? Oh, senza dubbio, rispondeva, e da parte del nemico al suo nemico è dovuto ciò che si conviene, qualche cosa di male, insomma. Ma allora, come pare, Simonide ha espresso per simbolo, poeticamente, in una parola, che cosa è la giustizia. Evidentemente, egli pensava che giustizia consistesse nel dare a ciascuno quanto si conviene, e chiamò un debito questa prestazione. «Ma che altro credi?» rispondeva. «Oh», dissi, «supponi che gli si domandasse. Simonide, senti, c'è un'arte che si chiama arte del medico. Dà il dovuto e il conveniente. A chi? Cosa credi che egli ci risponderebbe?» «Ma, è chiaro, un'arte che dà medicine, cibi e bevande al corpo. E c'è un'arte che si chiama arte del cuoco. Quale conveniente e quale dovuto dà e a chi? Un buon sapore ai cibi. E va bene. C'è un'arte che si chiama giustizia. Che cosa fornisce? A chi dà il suo prodotto?» Rispondeva, «se si deve seguire la precedente traccia, quest'arte rende a nemici e ad amici danno e vantaggio. Non ne risulta forse che Simonide dice giustizia far bene agli amici e far male ai nemici? Mi par davvero». «Allora, chi è particolarmente capace di beneficare gli amici quando sono ammalati, di trattar male i nemici, considerando sempre la salute e la malattia? Un medico. E chi, i naviganti di fronte al pericolo del mare? Un nocchiero. E dimmi un po', l'uomo giusto? In quale operazione e con quale scopo è particolarmente capace di beneficare gli amici e portar danno a nemici? Nell'urto della guerra e nei rapporti d'alleanza, così mi pare almeno. E va bene, ma è pur vero che a chi non è ammalato inutile è il medico, caro amico Polemarco, vero? E a chi non va sul mare il nocchiero, sì? E non è forse inutile il giusto a chi non fa la guerra? Questo non lo direi. Allora anche in tempo di pace utile? Utile. Del resto l'agricoltura, che ne dici? Sì, per la raccolta dei frutti, evidentemente. Sì. Del resto l'arte del calzolaio. Sì, naturalmente, credo io, per aver scarpe. Si capisce. Veniamo al nostro punto. In tempo di pace, a quale uso o per l'acquisto di quale cosa sarà utile la giustizia? Nei contatti tra gli uomini, Socrate. E contatti intendi i reciproci comuni rapporti tra uomini o qualche altra cosa? Rapporti reciproci, certo. Ma se si deve giocare la dama, l'uomo giusto è forse un compagno buono e utile? O non lo è piuttosto l'esperto nel gioco della dama? L'esperto nel gioco della dama. Ma se si debbono disporre pietre e mattoni, sarà più utile e miglior compagno il giusto piuttosto che l'architetto? No, assolutamente. Ma in quale comune rapporto con i nostri simili il giusto è miglior compagno dell'architetto e del musicista, a quella guisa che il musicista supera l'uomo giusto se si deve suonare uno strumento? Nei rapporti finanziari, mi pare almeno. Escludi, o Polemarco, il caso in cui si debba far uso del denaro, quando per esempio si debba comprare oppure vendere un cavallo. In tal caso, credo io, var meglio l'esperto di cavalli, non credi? Evidente. E se si deve comprare un battello, un armatore oppure un pilota, chiaro. Per quale uso dunque del denaro tra due parti interessate l'uomo giusto sarà più utile degli altri? Se si vuol fare un deposito e averlo poi salvo, Socrate. Dunque vuoi intendere quando non se ne debba far uso, quando il deposito debba restar là, fermo? Certo. Conclusione, quando il denaro non serve più a nulla, allora giustizia servirà al denaro. Forse sì. E quando sia necessario tenere in custodia un falcetto, senza farne cioè uso, la giustizia, nei rapporti comuni con l'altri e nell'uso nostro personale, serve a qualche cosa. Quando si debba farne veramente uso, serve l'arte del vignaiolo. Evidente. E non dirai pure che la giustizia serve a qualche cosa quando si deve tenere in custodia uno scudo o una cetra e non farne uso. Quando invece si debba servirsene, non sarà forse utile l'arte che insegna a maneggiare le armi e così pure l'arte musicale? Indubbiamente. E quando si tratta di altri casi, la giustizia è inutile per l'uso della singola cosa. Quando invece non se ne fa più uso, allora sarà utile la giustizia? Forse sì. Ne deriva che la giustizia non è affatto una cosa importante, dato che è utile per cose che sono inutili. Poi seguitai, piuttosto osserviamo quest'altro punto. Non credi che chi è bravo in battaglia, nel pugilato o in altra situazione, atto cioè a menar colpi, sia anche capace di guardarsi da quei colpi? Non c'è dubbio. E quando si sa guardarsi da una malattia, si avrà anche molta abilità in evitare le conseguenze di quel morbo, nel caso che l'avessimo fatto sorgere in noi, non credi? Mi pare. E del resto, la medesima persona che sa mantenere illeso un esercito è in grado anche di conoscere per mezzo di spie le condizioni del nemico, le sue intenzioni e tutti i suoi movimenti, non c'è dubbio. Allora, chi è abile a custodire una certa cosa è abile anche a rubarla. Così appare. Ne consegue allora che, se il giusto è bravo a custodire il denaro, sarà pure bravo a rubarlo. Ma, così parola ci mostra. In conclusione, il giusto ci si è manifestato ladro, e forse questa conclusione l'hai appresa da Omero. Anche lui loda Autolico, il nonno di Odisseo da parte di madre, e dice a questo proposito che costui supera ogni uomo nel furto e nello spergiuro. Pare dunque che la giustizia, secondo te, secondo Omero e secondo Simonide, sia una forma di furto a vantaggio, si capisce, degli amici e a danno dei nemici. Non credi così? Eh no, perdinci, non capisco quanto stavo dicendo. E appresso io. La definizione, in ogni modo, è sempre buona, credo, che cioè la giustizia apporta vantaggio agli amici e danno ai nemici. Cosa intendi per amici? Persone che dimostrano i loro sentimenti? Oppure quelli che in sostanza sono benigni, anche se esteriormente non lo dimostrano, e per i nemici lo stesso? Par naturale, si amano quante, secondo il nostro giudizio, sono persone oneste e si ha invece in odio chi ci porta danno. E gli uomini non commettono forse errore quando debbono pronunciare un giudizio a questo proposito? Molti, insomma, sembrano persone oneste e non lo sono affatto, così il caso inverso. Commettono errore, sì. Ne deriva che per costoro i buoni saranno nemici, i malvagi amici. Purtroppo. Ma allora, per questa categoria di persone, il giusto consiste nel concedere ogni vantaggio a chi ci fa del male e danno invece alle persone oneste. Pare di sì. Ma sta di fatto, invece, che le persone oneste sono giuste e non sono capaci di fare ingiustizia, vero? Certo, è vero. E allora, dalla tua tesi, deriverebbe che è giusto far male a chi non commette offesa. Eh no, Socrate, rispondeva. La tesi così appare pervertita. Allora, dissi, è giusto recar danno agli ingiusti e vantaggio ai giusti. Oh, va meglio così. Ma potrà sempre accadere, o Polemarco, che molti commettano errore nel giudicare i propri simili. Per costoro la giustizia consisterà nel far danno agli amici in quanto li giudicano malvagi e portar giovamento ai nemici, nel loro falso giudizio ritenuti buoni. E per tal modo finiremo con opposta conclusione di quanto Simonide diceva. Purtroppo, concludeva, accade proprio questo. poi continuò: «Piuttosto cambiamo un poco i termini. Può darsi che non fosse esatta la nostra definizione di amico e di nemico. Come li abbiamo definiti, o Polemarco? Si disse: è amico chi ci sembra una persona onesta. E ora invece, dissi, come dobbiamo cambiare?» «Amico», rispose, «è colui che pare, sì, ma che è anche persona onesta. Invece chi ha l'aspetto di persona onesta ma non lo è, pare amico senza esserlo, e per il concetto di nemico è lo stesso. Ne risulta che amico sarà il buono, nemico invece il cattivo. Sì. Ora devi aggiungere al concetto di giustizia qualche cosa in più di prima. Si diceva che giustizia consiste nel beneficare l'amico e nel far male al nemico. Ora, al contrario, devi ammettere che giustizia consiste nel beneficare l'amico in quanto è buono e nel far male al nemico in quanto è cattivo.» «Ma benissimo», rispondeva, «mi par proprio che vada bene. Ma è proprio compito, dissi, di un uomo giusto portar danno a qualcuno.» «Si capisce», rispondeva, «si tratta, in ultima analisi, di portar danno ai nemici e ai malvagi.» «E quando i cavalli soffrono danno, diventano migliori oppure peggiori?» «Peggiori. E ti pare che ciò avvenga in rapporto a quelle che sono le facoltà dei cani o le facoltà dei cavalli?» «In rapporto alle facoltà dei cavalli. E non è forse vero che anche i cani, se soffrono danno, diventano peggiori nelle loro proprie facoltà canine, non certo in rapporto alle facoltà dei cavalli?» «Necessariamente. E non dovremmo dire che gli uomini, se soffrono danno, diventano peggiori in rapporto alle facoltà umane?» «Si capisce bene.» «Ma la giustizia non è virtù pertinente all'uomo?» «Anche questo consegue.» «E allora gli uomini che vengono a soffrire danno, amico mio, è conseguenza necessaria, divengono più ingiusti.» «Pare.» «E un maestro di musica, con la sua musica, potrà fare in modo che si diventi meno capaci di musica?» «Impossibile.» «E i maestri di equitazione, meno capaci di equitazione per mezzo di quell'arte che pure insegnano?» «Impossibile.» «Ma con la giustizia i giusti renderanno gli altri ingiusti? O ti par davvero che, a dirla in breve, per mezzo d'una virtù i buoni possano render malvagio qualcuno?» «Via, è impossibile, e si capisce. Il compito del calore non è di fare freddo, ma ciò spetta al suo contrario.» «Sì, così pure fare umido non è proprio del secco, ma del suo contrario.» «Si capisce. E allora nemmeno il recar danno sarà proprio del buono, ma del suo contrario.» «È evidente. E il giusto, naturalmente, è buono.» «Certo. Se ne conclude che non è opera del giusto, o Polemarco, recar danno ad amico o ad altra persona qualsiasi. Questa è opera del suo contrario, dell'uomo ingiusto.» «Oh, va benissimo, così mi pare, Socrate.» «Quindi, se qualcuno ha affermato che la giustizia consiste nel rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto, e il senso di questa sentenza è che l'uomo giusto debba danno ai nemici, beneficio agli amici, se ciò è vero, questo tale allora non era certo un sapiente. Molto difettosa era in realtà la sua definizione. Abbiamo dimostrato che in nessun caso è conforme a giustizia far danno a qualcuno.» «Concedo», disse lui. «Combatteremo dunque, io e te, accanita battaglia, quando si vorrà affermare che Simonide, o Biante, o Pittaco, o qualche altro uomo sapiente e venerato abbia detto questa sentenza.» «Oh, eccomi», rispondeva, «sono tuo alleato in questa battaglia.» «Ma senti», continuai, «ti voglio dire di chi sia, secondo la mia impressione, questo detto, questo precetto di beneficare gli amici e arrecar danno ai nemici. Di chi? Credo che sia di Periandro, o di Perdicca, o di Serse, o di Ismenia Tebano, o di altro personaggio ricco, reso ebro dalla sua potenza.» «Hai perfettamente ragione», rispondeva. «E va bene», conclusi, «ma dal momento che la giustizia e il giusto non corrispondono nemmeno a quest'ultima definizione, giustizia e giusta cosa, che altro saranno mai?» C'era lì Trasimaco, il quale più volte, mentre discorrevamo, aveva tentato di interromperci per esprimere una sua contraria opinione, ma era stato sempre trattenuto da quanti gli stavano seduti appresso, desiderosi come erano di ascoltare sino in fondo la nostra discussione. Ma appena dette da me queste parole, quando cessai di parlare, oh, allora Trasimaco non poté più contenersi, si raccolse tutto, pareva una fiera, e s'avventò contro le nostre persone per farle a pezzi. Allora io e Polemarco restammo terrorizzati e veramente pieni d'angoscia. Ed egli a tutti insieme rivolse parola. Con voce assai alta cominciò: «È un pezzo che ne dite delle chiacchiere, e perché vi fate con tanta dabbenaggine tutti questi complimenti? Vuoi davvero sapere che cos'è la giustizia? Ebbene, non devi far tante domande, non devi farti bello con le tue confutazioni quando ti si dà una risposta. Bisogna sapere una cosa, è più facile interrogare piuttosto che rispondere. Insomma, rispondi alla tua volta e cerca di dire che cosa è secondo te la giustizia. Sta bene attento, non mi dire che giustizia è il dovere e neppure ciò che è utile, ciò che vale la pena di fare, ciò che si profitta, ciò che riesce di vantaggio. Dimmi dunque apertamente ed esattamente il tuo pensiero. E bada che queste vacuità, come quelle che hai detto, non le voglio sentire». Quanto grande il mio turbamento a queste parole! Alzai gli occhi verso lui e rimasi veramente atterrito. Son convinto che, se avesse rivolto verso me per primo gli occhi, invece che rivolgerli io verso di lui, sarei rimasto senza voce. Invece, quando cominciò a montare in furore, fissai su di lui lo sguardo per primo. Mi trovai quindi in grado di dargli una risposta. E tutto tremante gli dissi: «Trasimaco, non essere cattivo con noi. Vedi, se io e Polemarco discutendo commettiamo qualche errore, oh, sta pur certo, è senza volerlo. Pensa un po', se cercassimo l'oro, non staremmo certo, per quello che dipende dal nostro volere, a farci l'un l'altro tanti complimenti, perché si guasterebbe l'indagine e non lo troveremmo mai il nostro oro. Tantomeno quindi adesso, mentre facciamo indagine sulla giustizia, di gran lunga più pregevole che l'oro. Oh, non avrebbero senso queste reciproche concessioni. Bisogna prendere la cosa sul serio, invece, per vedere se è possibile di risolvere il problema. Credimi, è proprio così, mio buon amico. Il fatto è che le nostre forze non sono sufficienti, e quindi è giusto che persone del vostro valore abbiano compassione di noi, non certo ira». E lui a queste parole scoppiò in una risata amara e maligna, poi cominciò: «Ecco, ecco, quella famosa ironia di Socrate. Oh, tutto era perfettamente noto. Anzi, l'avevo già detto prima a questi amici. Tu non avresti voluto dare una risposta, saresti ricorso alla simulazione, insomma, a ogni mezzo, pur di non rispondere ai quesiti proposti». E io: «Ma tu sei un sapiente, caro Trasimaco. In conseguenza dovresti sapere che, se tu volessi chiedere a qualcuno da che cosa può risultare come prodotto il numero 12, e se, nel proporre l'interrogazione, mettessi come condizione preliminare: vada bene, amico mio, non devi dire che il numero 12 è 2 volte 6, e nemmeno 3 volte 4, e nemmeno 6 volte 2, e nemmeno 4 volte 3, sta pur sicuro, non ne voglio sapere di queste sciocchezze. Se dunque tu ponessi queste condizioni, puoi star sicuro che nessuno risponderebbe alla tua domanda. Ma supponi il tuo interlocutore ti chiede: oh Trasimaco, come intendi? È davvero vietata una risposta con uno dei termini da te esclusi? E se, ottimo amico mio, qualcuno di questi termini corrispondesse al vero, debbo dire in modo diverso dal vero? Cosa diresti a chi ti obiettasse questo?» «Ma Benone», rispondeva, «come se questo che dici tu corrispondesse alla mia proposta». «Non c'è nessuna ragione in contrario», dissi, «ma supponi che anche non sia conforme. La persona interrogata tuttavia ne ha l'impressione. Credi che nella risposta dovrà evitare ciò che gli appare esatto, tanto se gliene facciamo divieto, quanto se non gliene facciamo? Senz'altro farei così, mi darai una risposta fra quelle vietate». «Nessuna meraviglia», dissi, «se, dopo tanta attenta riflessione, così mi decidessi». «Senti, Socrate», continuava, «supponi che io proponga una risposta al quesito diversa da tutte le precedenti, e migliore poi. Cosa credi di fare?» «Una cosa sola», risposi, «ciò che tocca sempre e naturalmente a chi non sa, e naturalmente costui deve apprendere da chi sa. e io dovrò far proprio questo. E lui, molto gentile il nostro Socrate, ma oltre al gusto di poter imparare, dovrei anche pagare qualche cosa come compenso. Certo, quando avrò denari, continuai. E ce ne sono, interruppe Glaucone. Se si tratta di denaro puoi parlare, Trasimaco. Tutti siamo pronti ad aiutare Socrate. Magnifica conclusione. Così Socrate otterrà il suo intento, non rispondere e prendere occasione di una risposta altrui per far le sue schermaglie. E come vuoi, continuavo io, che si risponda quando, intanto, nulla si sa e si afferma di non sapere nulla. In secondo luogo, poi, seppur si sa qualche cosa, quando un uomo di valore come te pone il divieto di dire una di quelle conclusioni che si ritengono probabili, è molto più conveniente che tu prenda la parola. Sei tu che dici di sapere e di poter fare conveniente esposizione. Insomma, non voler fare in modo diverso. È un favore che ti domando. Rispondi e non togliere a Glaucone e agli altri la possibilità di imparare. Queste le mie parole, ma anche Glaucone e gli altri s'aggiunsero alla mia preghiera perché Trasimaco mi desse ascolto. Si vedeva del resto che Trasimaco, avido di plauso com'era, assai desiderava parlare. Evidentemente era convinto d'aver pronta una stupenda risposta, e quelle sue insistenze perché rispondessi io erano pura finzione. Insomma, alla fine si lasciò convincere. Allora cominciò a dire: ecco la sapienza di Socrate, e lui non ne vuol sapere di dare insegnamento, va in giro invece a imparar dagli altri, e gratitudine non ne dimostra a nessuno. E io: questo è vero, Trasimaco, effettivamente imparo dagli altri, in quanto poi alla mia ingratitudine si tratta di una menzogna. La mia gratitudine è naturale, si esprime secondo le mie forze, e le mie forze mi consentono solo l'applauso. Denaro, vedi, non ne ho. Con quanta sincerità io dono il mio plauso se qualcuno dice una bella cosa. Ne potrei fare esperimento subito, al più presto, quando questa tua risposta sarà venuta. Sarà, credo, magnifica. E allora ascolta, disse lui. Io affermo che la giustizia è ciò che è utile al più forte, questo e non altro. E i tuoi applausi dove sono? Eh già, non ne vuoi sapere. Ma prima vorrei capire le tue parole, rispondevo. Finora non ho capito. Ah, tu dici che giustizia è ciò che torna a vantaggio del più forte. Ma cosa intendi con questo, Trasimaco? Non vorrei mica dire, si capisce, una cosa di questo genere. Se Polidamante, il famoso campione, è più forte di noi fisicamente, e se al suo fisico è opportuna una dieta a base di carne di manzo, non per questo tale cibo sarà per noi, più deboli di lui, igienico insieme e giusto. In malafede sempre, Socrate? E tratti gli argomenti in quel modo appunto col quale ti riesce di mandare a male ogni cosa. Ma no, mio ottimo, dissi, tu devi esprimerti in modo più chiaro. E non sai, continuava Trasimaco, che gli stati in parte hanno reggimento tirannico, altri democratico, altri infine aristocratico. Come no? E non è forse vero che chi ha il governo in ciascuna città possiede anche la forza? Certo. E ogni governo fa le sue leggi, pensando alla propria convenienza, democrazia, leggi democratiche, tirannide, tiranniche e così via. E in quella che le fanno dimostrano senz'altro che per i sudditi il giusto è l'utile dei singoli governi. Anzi, sottopongono a punizioni chi trasgredisce a questa giustizia, ritenendo che egli sia un violatore della legge e un ingiusto. Ecco, ottimo amico, quello che intendo con concetto comune di giustizia per tutti gli stati, l'utile particolare al singolo governo vigente, il quale, capisci bene, ha nelle sue mani la forza. Insomma, una retta indagine conclude che in ogni dove il comune concetto di giustizia sia ciò che è utile al più forte. Adesso finalmente ho capito il tuo pensiero. Cercherò di sapere se risponda o meno a verità. Poi seguitai. A dire il vero, o Trasimaco, mi hai detto ora che giustizia è l'utile e tu mi avevi fatto divieto di usare questa risposta. È pur vero in ogni caso che qui hai aggiunto del più forte. Oh, un'aggiunta, rispondeva, assai da poco evidentemente. Non ho ancora modo di vedere nemmeno se sia importante. Vedo che bisogna fare indagine per stabilire veramente se hai ragione. Intanto io pure ammetto che il giusto sia qualche cosa di utile, ma siccome aggiungi che quest'utile debba ridondare sul più forte, e questo punto io l'ignoro, si tratta di veder bene come stanno le cose. E tu guarda pure, rispondeva. Certo, sì, continuai. Dimmi un po'. Giustizia, dunque, consiste nell'obbedire a chi detiene il governo, non è vero? Sì. E i singoli governanti sono infallibili nei singoli stati o possono anche commettere errore? Oh, sì, sì, rispondeva, errori ne commettono. E allora, nei loro tentativi di stabilire le leggi, alcune di queste le stabiliscono rettamente, altre invece non rettamente, è vero? Credo. E rettamente stabilire una legge è imporre il proprio personale vantaggio, non rettamente invece quando non vi è profitto personale. Cosa ti pare? Così. E i sudditi in ogni caso debbono obbedire a quelle disposizioni. Questa è giustizia. Come no? Allora, secondo il tuo argomento, non è soltanto giusto far ciò che è utile al più potente, ma anche il contrario, ciò che non è utile. Cosa vuoi dire? Esclamò. Ciò che stai dicendo tu, mi pare. Vediamo meglio, tuttavia. Abbiamo ammesso che i governanti, pur imponendo ai sudditi di far qualche cosa, possono talvolta errare su ciò che torna utile al loro interesse. D'altra parte, si è ammesso che è giusto per i sudditi mettere in pratica le disposizioni dei governanti. Su questo punto non si era già d'accordo? Mi par di sì, rispondeva. Credi dunque, dissi io, d'essere convinto che questo attuare le disposizioni pur non convenienti ai governanti e ai più forti sia sempre giustizia? In tal caso i governanti, senza volerlo, impongono provvedimenti che si risolvono in vero e proprio danno. D'altra parte, tu affermi giustizia al compiere ciò che essi impongono, ma in questo caso, Trasimaco mio, uomo sapientissimo, la giustizia, così appunto, è proprio il contrario di ciò che dici. Viene imposto in tal caso ai più deboli, mi pare evidente, di far ciò che non è utile ai più potenti. Per dinci, cominciò Polemarco, sì, evidentemente, davvero. E Clitofonte, interrompendo, sì, certo, quando poi lo dici tu. E l'altro, ah sì, lo dico io. Lo stesso Trasimaco assicura che talvolta i governanti impongono leggi dannose a loro stessi e che attuarle è appunto giustizia. Eh no, Polemarco, Trasimaco pose giustizia soltanto nell'eseguire gli ordini dati dai governanti. Sì, ma vedi, Clitofonte, egli anche stabilì che giustizia è l'utile del più forte. E ora, poste queste due premesse, ha dovuto pure ammettere che vi sono casi in cui i più forti ordinano ai più deboli e ai sudditi di compiere ciò che torna proprio a loro stessi di danno. Da tutte queste conclusioni accettate e ammesse, risulta precisamente che giustizia è l'utile e il vantaggio del più forte, come pure nello stesso tempo ciò che non è né utile né vantaggioso al più forte. E Clitofonte, ma in questo senso egli intendeva il vantaggio del più forte, che si trattasse cioè di cosa giudicata dal più forte come a lui stesso utile, e il più debole è tenuto a far questo, e in ciò egli poneva il giusto. Eh no, concluse Polemarco, non ha detto mica in tal modo. Bene, Polemarco, non fa nulla, aggiunsi io. Se ora Trasimaco vuol modificare così la sua tesi, siamo pronti ad accogliere la modificazione. E tu, Trasimaco, dimmi così, volevi definire in questo modo il giusto? Volevi accennare a quello che il più forte crede di giovamento a se stesso? E questo, tanto se effettivamente gli porta giovamento, tanto se non glielo porta? Dobbiamo dire che tu intendevi questo? No. Affatto, rispose. Credi che io possa chiamar più forte uno che sbaglia mentre sbaglia? Eppure, continuai, ho avuto impressione che tu volessi accennare a una cosa di questo genere quando eri d'accordo che i governanti non sono infallibili, ma che sbagliano in qualche cosa. Sei in mala fede, Socrate, rispondeva, quando argomenti così. Senti un po', prendi un medico. Chiami con questo nome colui che al capezzale dell'infermo non capisce e sbaglia la cura. Lo chiami col nome di medico, in quanto non capisce e sbaglia. Prendi un uomo esperto nel calcolo. Proprio in ciò che egli erra, mentre fa un calcolo, lo chiamerai con quel nome in rapporto precisamente all'errore? Concedo sì che parlando comunemente ci si esprima così, si dice cioè che il medico ha sbagliato, che il calcolatore pure ha sbagliato, e così il maestro di scuola. Ma io sono convinto di una cosa, ciascuno di essi non sbaglia mai, in quanto ciascuno è precisamente quello che il nome da noi adoperato viene a significare. Ne viene di conseguenza che, se vogliamo essere esatti nell'uso di termini, come del resto tu pure ci tieni ad esserlo, nessun artefice commette errore. Vedi, chi commette errore lo commette per sua difettiva scienza, e sotto questo aspetto non è vero artefice. Ne viene ancora che artefice, uomo sapiente, governante, nessuno di questa categoria commette errore quando esercita la sua funzione che, per l'ultimo da noi annoverato, è di governo. Certo, si può dir sempre che un medico sbaglia, che un uomo di governo pure sbaglia, e in questo senso devi appunto interpretare la mia risposta. Ma il suo senso esatto e preciso è indubbiamente che il governante, in quanto governante, non commette errore, e quindi, non commettendo errore, dico benissimo, stabilisce a suo profitto ciò che vi è di meglio. E i sudditi sono tenuti a fare proprio questo. Insomma, come dicevo in principio, il giusto è né più né meno che fare l'utile del più forte. E va bene, dissi, o Trasimaco, ti par proprio che io sia in malafede? Ma certo, rispondeva. Credi che, insidiosamente, per mandare a male la discussione, io mi rivolga a te con le mie domande? Ne sono pienamente persuaso, rispondeva. Ma non ci riesci lo stesso. Io m'accorgo benissimo dei tuoi inganni, e quindi, siccome me ne accorgo, non riesci a farmi violenza nella discussione. Ma nemmeno ci tengo, beato uomo che sei. In ogni caso, non vorrei davvero che mi si facesse una seconda volta questa accusa. Definisci dunque se intendi il governante il più potente, nel senso del parlare comune o nel senso più esatto della parola, come dicevi poco fa, e il vantaggio di questo governante che è più forte, appunto perché è più forte, sarà giustizia che l'inferiore, più debole, deve mettere in pratica. Quello che è governante nel senso più esatto della parola. E adesso giù, imbroglia quanto vuoi, in mala fede, quanto vuoi, se ci riesci. Per me nulla in contrario, ma non ci riuscirai certo. E puoi tu credere, continuai, ch'io sia così folle da tentar di tosare un leone, da rivolgere accusa a un Trasimaco? Eppure ora hai tentato, buono a nulla anche in questo. Basta, risposi, dimmi piuttosto, il medico secondo l'esatto senso della parola, quel medico di cui poco fa parlavi, è un uomo d'affari o piuttosto è colui che cura gli ammalati? Colui, rispondeva, che cura gli ammalati. E senti, il capitano di nave, il vero capitano, è colui che regge i naviganti o è un semplice marinaio? Colui che regge i naviganti. E non conta nulla, credo, che egli navighi sulla nave. Non può lo stesso venir chiamato semplice marinaio. Il capitano, vedi, non ha questo nome per il fatto che naviga, ma perché possiede un'arte particolare e perché ha un governo sui marinai. È vero, rispondeva. E adesso, non ammetteremo che per ciascuno di costoro vi sia anche un personale vantaggio. Si capisce. E l'esercizio delle varie arti ha questo scopo appunto, che ciascuno possa cercare e procurarsi questo vantaggio, non credi? Questo scopo appunto, rispondeva, ma per ciò che concerne una singola arte in se stessa, l'unico vantaggio sarà di poter godere in grado sommo della propria perfezione, è vero? In che senso? In questo senso, rispondevo io, supponi, tu mi chiedi se al corpo basta essere corpo o se ha bisogno di qualche cosa. Io direi, ma certo ne ha bisogno, e per questo motivo si son fatte in questi tempi tante indagini sulla medicina, perché il corpo è difettoso e non basta a se stesso, e appunto per procurare al corpo ciò che gli torna utile, a questo scopo appunto fu disposta l'arte del medico. Ti pare che io abbia ragione a dir così, oppure no? Ragione, rispondeva. Se consideriamo invece la medicina, potremmo affermare che non sia sufficiente a se stessa, che le varie arti abbiano in genere bisogno di ulteriori virtù a costituirne il compimento? E mi spiego. Gli occhi debbono vedere, le orecchie debbono udire. Questo è il motivo appunto per cui è necessaria una certa arte che potrà cercare e procurare le cose utili per questo ulteriore scopo. Consideriamo in se stessa l'arte. C'è un qualche difetto onde ogni singola arte abbia bisogno di un'altra che provveda quanto alla prima è utile? E così pure a questa che provvede è forse necessaria un'altra ancora che a sua volta la perfezioni e così avanti all'infinito? O invece ogni arte, per conto suo, provvederà a se stessa per suo conto? O ancora, le singole arti non hanno affatto bisogno di provvedere per loro conto, né con l'aiuto d'altre a ciò che per qualche loro deficienza è utile. In tal caso si deve ammettere che non vi sia per nessuna arte né deficienza né errore alcuno, così pure ammettere che l'arte ricerca soltanto il vantaggio di colui al quale l'arte singola si rivolge. Per sé, insomma, l'arte è indenne e integra, sta per suo conto ritta in piedi, e ciò fino al punto in cui ciascuna rimane esattamente e completamente per entro i limiti del proprio argomento. Considera queste mie osservazioni col tuo famoso esatto ragionamento. È così o è altrimenti? Così rispondeva, mi pare. E allora, dissi, la medicina non provvede l'utile per sé, cioè per la medicina, ma per l'organismo ammalato. Sì, rispondeva. E nemmeno l'arte che s'occupa dei cavalli provvede a se stessa, bensì ai cavalli. E così tutte le altre arti, nessuna provvede a sé, in realtà nemmeno ha bisogno di qualche cosa, ma provvede alla singola cosa in vista della quale la sua attività si svolge. Sembra, rispondeva, che sia così. Tuttavia, o Trasimaco, è un fatto. Le singole arti esercitano un dominio su ciò cui rivolgono l'attività, e governano effettivamente la cosa affidata. Dette la sua approvazione, ma molto a stento. Allora nessuna disciplina cerca e impone l'utile di chi è più forte, bensì l'utile di chi è inferiore e di chi ne subisce il governo. Acconsentì a questa conclusione dopo lungo indugio e cercando di contrastare, quando finalmente mi dette il consenso. È un fatto, continuai, nessun medico, in quanto medico, provvede e impone ciò che al medico personalmente è utile, bensì ciò che è utile all'ammalato. Siamo già d'accordo del resto che il vero medico governa l'organismo infermo e non è un uomo d'affari che accumula denaro. Non siamo d'accordo su questo? Disse di sì. E allora il vero capitano di nave è, siamo d'accordo, uno che governa i marinai, non un marinaio lui stesso. D'accordo. E un tale capitano di nave, in quanto uomo che governa, non provvederà e non imporrà ciò che è utile al capitano, ma bensì ciò che è utile al marinaio, suo governato. A gran fatica acconsentì. Ne consegue, o Trasimaco, che in quanto si esercita un'autorità e in quanto si occupa un posto nel quale si è chiamati a provvedere ad altri, a governare su altri, non si cerca e non si impone ciò che è utile a noi stessi, bensì l'utile dei nostri sottoposti, e in genere di coloro che debbono ricevere beneficio dal nostro sforzo. Ciò che si dice e si fa è rivolto a procacciare quello che è utile e conveniente al nostro subordinato. Arrivati a questo punto, tutti intuivano che la definizione della giustizia era stata capovolta. Trasimaco allora, invece di rispondere, esclamò: «Dimmi un po', Socrate, ce l'hai la balia?» «Cosa c'entra? Non è meglio rispondere a tono e lasciare andare queste spirito saggini? Ma, vedi, è perché ti cola il naso e hai bisogno di fartelo pulito e la nutrice non te lo pulisce. Oh, si vede bene, non sai distinguere un gregge da un pastore». «E perché tutto questo?» dissi io. «Perché tu credi che i pastori di pecore o di bovi provvedano al bene delle pecore o dei bovi. Credi che li ingrassino e ne abbiano tante cure, con una mira diversa dal bene loro proprio, di loro che ne sono i padroni. E lo stesso, precisamente, chi governa nelle città, quelli almeno che governano sul serio. Tu credi che pensino a qualche altra cosa, diversa da quella che pensano i pastori rispetto al loro gregge? Oh, giorno e notte questa gente pensa a un'unica cosa, ottenere dai sudditi i massimi vantaggi. E quanto sei lontano dal concetto di giusto e di giustizia, così pure dal concetto dell'ingiusto e dell'ingiustizia. Oh, completamente tu ignori che la giustizia e il giusto sono un bene per altri, nel senso che è l'utile di chi è superiore e più forte, il danno di chi obbedisce e di chi serve. Al contrario, invece, l'ingiustizia, che esercita il suo dominio su gente ingenua assai, sui giusti, e questa gente, dominata com'è, non fa se non l'utile dell'altro che sta sopra. Col loro servizio lo rendono felice, ma se stessi manco per sogno. Bisogna stare molto attenti, Socrate, uomo veramente ingenuo, perché il giusto in ogni occasione si trova ad aver meno dell'ingiusto. Intanto i reciproci rapporti di interesse coi suoi simili, quando un uomo tratta con un altro. Oh, sta pur sicuro, non troverai a conti fatti che il giusto risulti mai in possesso d'un guadagno in confronto all'uomo ingiusto. Certo avrà di meno, ma poi i rapporti con lo Stato. C'è da pagare un tributo? Ebbene, puoi star sicuro, il giusto, a pari condizioni, paga un tributo più grave, l'altro più lieve. C'è da riscuotere qualche cosa? L'uno prende un bel niente, l'altro guadagna bene e abbondantemente. Ma quando poi ciascuno dei due debba esercitare qualche incarico politico, l'uno, il giusto, anche se non gli capita qualche guaio peggiore, ha il risultato di avere gli interessi domestici deplorevolmente compromessi, mentre, appunto per il motivo di essere giusto, non gli è riuscito di trarre vantaggio alcuno dal pubblico ufficio. E non solo, si sarà attirata inimicizie di parenti e di amici, perché non ne vuol sapere di far qualche favore contrario alla giustizia. Tutti i vantaggi contrari spettano invece all'uomo ingiusto, e voglio intendere colui che è in grado di sopraffare a vantaggio proprio gli altri. Ne ho fatto cenno proprio ora. Costui devi osservare, se vuoi vedere quanto convenga all'uomo essere ingiusto piuttosto che giusto nei suoi rapporti privati. Ma conoscerai questo con la massima facilità, se vorrai tener presente la forma più completa di ingiustizia, quella appunto che rende l'uomo ingiusto fortunato al grado estremo, quella che rende le vittime di quell'ingiustizia tremendamente sciagurate, e con esse quanti di ingiustizia non ne vogliono sapere. Il caso, appunto, della tirannide. Il tiranno non a poco, ma tutti insieme gli altrui possessi, nascostamente e a violenza rapisce, e ogni cosa sacra e santa, pubblica e privata. Chi commette singolarmente e particolarmente certi delitti, se non arriva a celare la propria colpa, è punito e ne acquista orribile nome d'infamia. Ecco i ladri sacrileghi, ecco gli incettatori di uomini liberi per farli schiavi, gli scassinatori, i fraudolenti, i ladri. Costoro hanno nome dal singolo delitto, secondo la parziale colpa commessa. Ebbene, se vi è chi assume impresa di far servi i suoi concittadini per mettere le mani sui loro possessi e sulle loro persone, costui, invece di questi orribili nomi, è salutato come uomo fortunato e beato, e non solo per opera dei suoi concittadini, ma anche per opera d'altri, quando vengono a conoscenza che egli è l'ingiusto assoluto e consummato. Perché, vedi, non è che temano di far l'ingiustizia, temono di subirla l'ingiustizia, e allora tutti si mettono a vituperar l'ingiustizia. Così, o Socrate, un'ingiustizia consummata e perfetta è cosa più forte, più libera, più signorile che non la giustizia. E insomma, è proprio come dicevo in principio, la giustizia è l'utile e il vantaggio del più forte e di chi è superiore. L'ingiustizia è ciò che a lei stessa giova e le dà profitto. Dette queste parole, l'intenzione di Trasimaco era di andarsene via. Credeva d'aver inondato, come per vigorosa doccia, le nostre orecchie di compatto e copioso discorso, ma i presenti non glielo acconsentirono, anzi lo costrinsero ad attendere e a dar ragione delle sue parole. Del resto io stesso lo pregavo insistentemente e gli dicevo: Trasimaco, tu sei un uomo veramente straordinario, hai proposto ragioni così gravi e hai in mente d'andartene prima di dare a noi sufficiente istruzione o prima di aver messo in chiaro, anche per tuo conto, se così veramente stanno le cose. Ti par d'aver posto mano a dar definizione di cosa poco importante? Si tratta di una regola per la vita, una regola seguendo la quale ciascuno di noi potrà nel modo più fruttuoso passare l'esistenza. Oh, si capisce, rispondeva Trasimaco, su questo punto ho una diversa idea. e io. Sembrerebbe comunque che tu non ti dessi pensiero alcuno di noi e non ti preoccupassi affatto se la nostra vita sarà informata a idealità migliori o peggiori, in quanto ci troviamo all'oscuro di ciò che tu affermi di sapere. Oh, amico buono, deciditi di fare anche a noi dimostrazioni. Pensa, non sarà opera buttata via la tua, se ci vorrai far questo favore, non siamo in pochi. Per conto mio, ti dirò, non sono persuaso e non posso credere che l'ingiustizia sia più vantaggiosa della giustizia. Neppure poi mi convince che si debba dar pieno sfogo ai nostri istinti, che questi istinti non debbano essere trattenuti in ogni modo. Tuttavia, mio caro, ammettiamo pure un ingiusto. Abbia possibilità di trionfare con la sua ingiusta condotta in segreto o apertamente nella lotta della vita. In ogni caso, non riesce a persuadermi che la sua ingiustizia, in confronto a giustizia, possa rappresentare un vero e proprio guadagno. E forse qualche altro tra noi ha avuto questa impressione, non soltanto io. In conclusione, beato uomo che sei, devi infondere in noi completa persuasione che non esatto è il nostro giudizio, in quanto riteniamo superiore all'ingiustizia la giustizia. E come vuoi, rispondeva, che te ne faccia persuaso? Te ne ho dette tante, proprio ora, ma non ti ho persuaso. Cosa vuoi che ti dica di più? Vuoi forse che gli argomenti te li porti dentro e li cacci a forza nell'anima? No, no, in nome del cielo. Quindi soggiunsi, ma rimani intanto, prima di tutto, fermo alle conclusioni che hai posto, oppure, se qualche cosa vuoi mutare, fai in piena luce queste mutazioni e sta bene attento di non farle a nostra insaputa. Ora poi, o Trasimaco, si tratta di dare ancora un'occhiata alle precedenti conclusioni. Tu hai definito bene in un primo momento che cosa sia il vero medico, invece non credesti opportuno successivamente di seguire una definizione esatta circa il vero concetto di pastore. Al contrario, credi che egli debba condurre al pascolo le pecore senza considerare, in quanto pastore, quella condizione che sia la più buona possibile per il suo gregge, un ghiottone vero e proprio che debba poi anche ricevere alla sua mensa taluni ospiti, tutto preoccupato della bontà dei cibi, o anche preoccupato solo della prossima vendita, vero e proprio uomo d'affari, non pastore. In realtà, invece, l'arte del pastore non di altra meta si preoccupa, se non di procurare il benessere più completo a ciò per cui è stata istituita, sufficientemente disposta in ogni attività e per tal guisa che, senza dubbio, perfetta appare. Questo finché da lei si richieda soltanto di essere arte di pastori. Ciò ammesso, io credevo or ora che necessariamente ogni forma di governo, in quanto è di governo, avesse per unica meta produrre una condizione migliore unicamente per i governati e in genere per coloro che essa tutela. E questo vuoi nelle forme politiche, vuoi nelle private abilità. Del resto, credi che i governanti, quelli che veramente siano governanti, svolgano la loro opera per spontanea volontà? Non lo credo mica, rispondeva, lo so benissimo. Ma io allora, senti un po', Trasimaco, ci sono gli altri uffici di carattere non politico. Ebbene, t'accorgi che nessun uomo, per quanto sta in lui, ci tiene ad esercitarli, bensì ne richiede una mercede quale ricompensa. Si giudica infatti che personalmente non verrà vantaggio alcuno da questo esercizio di autorità, bensì che il vantaggio sarà tutto per chi è sottoposto. Stammi attento. Ciascuna arte, così sempre si dice, differisce da ogni altra, perciò appunto che ha una sua diversa funzione. E cerca, caro amico, di darmi risposta conforme alla tua opinione, in modo che mi riesca di concludere qualche cosa. Ma sì, per questo motivo, ciascuna differisce. Ne consegue che ciascuna produce a noi una particolare singola forma d'utile, non certo a tutte comune. Per esempio, medicina, salute, arte del nocchiero, salvezza sul mare, e così via. Indubbiamente. Allora, l'arte per cui si ottiene una mercede ha quale prodotto appunto una mercede? In realtà, la funzione sua è questa e nient'altro. Oppur chiami arte unica la medicina e l'arte del capitano di nave? Non credo, perché attenendoti a un'esatta definizione, come ti sei proposto, dovrai concludere che, Se anche un nocchiero riacquista la salute, perché l'aria e la vita del mare gli conferiscono, non certo la sua arte è medica. Eh no, certo, rispondeva. E neppure credo l'arte mercenaria, la chiamerei medicina, anche se attraverso tale servizio mercenario si fa guarire il paziente. No, certo. E senti, chiamerai la medicina un'arte esclusivamente suscettiva di mercede o di personale profitto per il fatto che, facendo il medico, si guadagna una mercede? Disse di no. Ma non abbiamo ammesso che ciascuna arte è suscettiva di produrre singolarmente qualche cosa a noi utile? Concedo, rispondeva. Ma allora c'è anche un qualche prodotto utile di cui tutti gli artefici indistintamente e per comune guisa vengono a godere. In questo caso è chiaro che godono di tal vantaggio valendosi di una certa cosa che è la medesima, aggiunta all'esercizio della singola arte loro. Par di sì, rispondeva. Possiamo affermare, dunque, il fatto che gli artefici ottengano mercede e profitto proviene da questo. Oltre alla singola loro arte, fanno anche uso dell'arte produttrice di mercede. Acconsentì a fatica. Allora non è vero che questo vantaggio, cioè l'acquisto di una mercede, provenga a ciascuno dalla propria singola arte. Bensì, se consideriamo con esatta ragione il problema, la medicina produce salute, invece l'arte produttrice di mercede produce mercede. Così pure l'architettura produce una casa e l'arte mercenaria, a quella seguace, produce una mercede, e potresti continuare. Le altre arti compiono ciascuna la propria singola operazione e pensano a produrre il bene di ciò a cui si applicano. E se non si aggiunga alla singola arte una qualunque mercede, l'artefice può aver vantaggio dalla propria arte? Non pare, rispondeva. E non è forse vero che la singola arte nemmeno dà un vantaggio quando sia gratuitamente esercitata? Lo credo bene. In conclusione, è evidente che nessuna arte, nessuna forma di governo produce un vantaggio che ridondi su se stessa, bensì, e ciò da un pezzo dicevamo, ogni arte cercando di giovare a chi è più debole, non a chi è più forte, produce e dispone il vantaggio di chi è governato. Per questo motivo, appunto, mio caro Trasimaco, continuo a dire da un pezzo che nessuno ne vuol sapere di governare per quanto sta in lui. Nessuno vorrebbe metter mano a raddrizzare gli altrui malanni, bensì a questo scopo si domanda una mercede. E ciò sempre per questo, che chi deve esercitare bene un'arte non produce mai né impone un suo personale tornaconto. Egli pensa soltanto a chi dipende da lui. Questo è il motivo per cui, è evidente, deve esserci una particolare mercede a chi vuole esercitare un pubblico ufficio. Denaro, reputazione, così pure in senso opposto una multa se ci si vuol sottrarre a questo dovere. Ma questo in che senso lo affermi, o Socrate? Interruppe Glaucone. Fino alle due mercedi ti seguo e capisco. In quanto alla multa e alla sua funzione succedanea alla mercede, non ho capito. Eppure, risposi io, non puoi intendere altrimenti la mercede che i migliori agognano, quella per cui persone fornite di qualità superiori si adattano a governare quando accettano di governare. O non sai che l'avida ricerca d'onori e di denaro è ritenuta comunemente, e lo è in effetto, una cosa di cui conviene vergognarsi? Lo so, rispondeva. Per questo motivo i bravi cittadini non hanno in vista il denaro e neppure il lustro proveniente dall'ufficio quando acconsentano a governare. Vogliono evitare d'essere chiamati mercenari, quasi che per aperte vie cercassero un guadagno con l'esercizio del loro ufficio. Come d'altra parte non vogliono essere chiamati ladri, in quanto cerchino questo guadagno per segreti tramiti, e nemmeno fanno questo per avidità d'onori. Essi non sono ambiziosi, ma appunto per questo è necessario imporre una costrizione e una pena in modo da spingerli a esercitare un'attività politica. Da tutto questo deriva che il presentarsi di propria iniziativa ai pubblici uffici senza attendere una costrizione deve essere ritenuto azione non conveniente, mentre d'altra parte la punizione più grande è dover subire l'arbitrio di persona inetta se il bravo cittadino non si decide a prendere la sua parte nel governo della patria. E le persone oneste pare a me che da questo timore appunto siano spinte ad accettare pubblici incarichi quando li accettano. In tal caso si accingono all'opera, convinti di non fare il loro personale interesse, convinti che non sarà certamente quella una vita felice e gioconda. Sanno bene che si tratta di una necessità, in quanto non ci sono uomini migliori, o eguali almeno, cui affidare la pubblica cosa. Non v'è dubbio che, se bravi e onesti fossero tutti i cittadini, si farebbe a gara per non occupare i posti di comando, a quel modo che ora è viva la gara per occuparli. Allora sarebbe manifesto che il vero governante non è naturalmente disposto a considerare il proprio tornaconto, bensì quello dei propri dipendenti. Ne viene che chi è un po' accorto sceglierà sempre d'essere beneficato per opere altrui, piuttosto che, beneficando egli stesso un altro, sobbarcarsi un carico di noie. Insomma, su questo punto non la cedo per nessun modo a Trasimaco. Giustizia non è l'utile del più forte, ma di ciò discuteremo in avvenire. Invece, mi pare più grave assai quello che ora Trasimaco afferma, cioè che la vita dell'uomo ingiusto è preferibile a quella del giusto. Tu dunque, continuai, quale delle due sentenze vorresti scegliere, o Glaucone, e quale ti pare corrisponda di più al vero? Oh, per conto mio, che la vita del giusto sia portatrice di maggior vantaggio. Hai sentito, continuai, quante belle cose Trasimaco ha annoverato per la vita dell'ingiusto? Sì, ho sentito, ma non sono affatto convinto. E vuoi che cerchiamo di farlo persuaso, se ci riesce? E come non dovrei volere, disse lui. Supponi dunque che potessimo contrapporre al suo argomentare un altro argomentare nostro, e che gli dimostrassimo quante cose buone ha in sé l'esser giusto, e lui opponesse un'altra dimostrazione e un'altra ancora noi pure. In tal caso bisognerà fare il conto delle cose buone, quante ciascuno di noi arriva ad annoverare, e se così è, avremo senz'altro bisogno di arbitri che decidano e diano un giudizio. Qualora invece consideriamo la cosa come si fece poco fa, mettendoci d'accordo l'uno con l'altro, in tal caso faremo nello stesso tempo le parti di giudice e di avvocati. Benissimo, rispondeva. Quale delle due risoluzioni ti piace meglio? Gli domandai. La seconda, rispondeva. E allora via, dissi, o Trasimaco, cominciamo dal principio. Affermi tu che la completa ingiustizia apporti più giovamento di una giustizia pure completa? Senza dubbio, lo affermo, rispondeva, e ne ho esposto i motivi. Ebbene, sul nostro problema, dimmi questo soltanto. Certo di questi due fatti, l'uno chiami virtù, l'altro malvagità. Come no? E allora la giustizia, virtù, l'ingiustizia, malvagità. Quasi quasi, mio dolcissimo amico, devi saperlo che secondo me l'ingiustizia porta profitto, tutto l'opposto della giustizia. E cosa ne vuoi ricavare? Una risposta contraria, disse lui. Ah, che la giustizia è malvagità? Questo no, bensì una veramente generosa da benaggine. E allora l'ingiustizia la chiami accorta astuzia, non è vero? No, piuttosto consiglio accorto. Ah, e ti pare, o Trasimaco, che siano anche intelligenti e bravi gli ingiusti? Sì, rispondeva. Coloro che sono capaci di portare sino in fondo la loro ingiustizia, potenti in sottometter città, stati e nazioni. Perché tu potresti pensare che io intendessi parlare di tagliaborse. Del resto, anche questa abilità può portar vantaggio non piccolo, se il tagliaborse non si fa cogliere sul fatto. Ma su questo non vale la pena di discutere. Il precedente punto ha valore. Non è che io non capisca il tuo pensiero, ma un punto mi desta meraviglia. L'ingiustizia la poni nel novero di virtù e di sapienza, la giustizia nel novero contrario? Ma si capisce, così ritengo la cosa. Questa tesi, dissi io, è ancor più dura, amico caro, e non è facile trovare argomenti per confutarla, perché se tu ponessi che certo l'ingiustizia ci dà vantaggio, ma pur concedessi, come taluni fanno, che l'ingiustizia è uguale a malvagità ed è brutta cosa, avremmo modo di ribattere con argomenti di carattere comune. Ora invece è cosa aperta, tu dirai che l'ingiustizia è bella e forte e vorrai aggiungerle tutti gli attributi che abitualmente usiamo per la giustizia. e ciò dal momento che hai osato annoverarla insieme alla virtù e alla sapienza. Non fai mica una previsione errata. Ma in ogni caso bisogna mettere da parte ogni indugio e cercar d'uscirne fuori indagando e discutendo, fino al momento in cui io possa supporre che tu dici veramente il tuo pensiero, perché è un fatto, Trasimaco, ho impressione che tu ora non stia scherzando. Tu dici, mi par davvero, la tua schietta opinione su questo problema. E a te, rispondeva, cosa importa? Che sia questa oppure anche non sia la mia opinione, su via, dimostra in se stessa la tesi. Hai ragione, a me non importa nulla. Piuttosto dammi risposta su questo punto. Ti pare che il giusto voglia avere qualche cosa più d'un altro giusto? Assolutamente no, esclamò, perché non sarebbe più quel curioso tipo, quel semplice buon uomo che effettivamente è. E senti, in un'operazione giusta, più di quanto è giusto? Nemmeno più di quanto è giusto. E vorrebbe possedere più dell'uomo ingiusto? Come giudicherà egli questo fatto, lecito o illecito? Lo giudicherebbe anche lecito, e lo vorrebbe, quanto al volere, ma non potrebbe. Non ti domando questo, dissi, bensì se il giusto non presume, non vuole aver più d'un altro giusto, ma d'un uomo ingiusto sì. È così, appunto, rispondeva. E ora veniamo all'uomo ingiusto. Credi che presumerebbe possedere più d'un altro giusto e più di quanto giustizia consente? Come no, rispondeva, presume possedere più d'ogni altro. E allora l'ingiusto farà forza per possedere anche più d'un altro ingiusto e oltre i limiti consentiti da una lecita misura. Il suo sarà uno sforzo per arraffare, egli solo, più di tutti. È un fatto. Diciamo dunque così, continuavo. Il giusto non cerca di possedere più di chi è come lui, ma bensì di chi non è come lui. L'ingiusto, invece, tanto di chi gli è pari, quanto di chi non gli è. L'hai detta benissimo. E, secondo te, continuai, l'ingiusto è intelligente e accorto. Il giusto non ha né l'una né l'altra qualità. E anche questo, rispondeva, va bene. Ne consegue che, dissi io, l'ingiusto è simile a chi è intelligente e accorto, il giusto invece no. Certo, rispondeva, chi ha talune qualità sarà simile a un altro che parimenti possiede queste qualità, non così chi ne è sfornito. Bene, le qualità dell'uno e dell'altro li rendono di natura uguale a quelli cui somigliano, non è vero? Si capisce, come no, rispondeva. E va bene, o Trasimaco, tu dici che un uomo può essere musico, un altro invece ignaro di musica, no? Io sì. Chi dei due se ne intende ed è esperto in materia? Chi invece non ne sa nulla? Il musico è esperto, l'ignaro di musica non ne sa nulla. E non credi che il musico in ciò di cui è intelligente sia esperto e in ciò che non sa incapace? Sì. Ebbene il medico non è così? Così. E ti pare che un uomo musico, mio ottimo amico, in quanto accorda il suo strumento, voglia sopraffare un altro uomo musico quando rallenta o quando tende le corde, che pretenda avere di più? Non mi pare. Senti un po', di chi non è musico? Necessariamente, rispondeva. E senti, quando un medico prescrive la dieta, vorrà soverchiare un altro suo collega o violare una cura già stabilita? No. Ma soverchiare un ignaro in medicina? Sì. Osserva chi sa e chi non sa. Colui che sa non ammette operazioni o parole oltre precisa misura, quella che ammetterebbe qualsiasi altra persona esperta di quella singola cosa. In parità d'operazione, una misura identica a quella adibita dal collega. Ma suppongo, rispondeva, che la cosa sia così. E cosa fa l'ignorante? Non cercherà d'arraffare in pari misura su chi sa e su chi non sa? Forse. E chi possiede scienza non è sapiente? Affermo. E il sapiente non è forse esperto? Accetto. In conclusione, l'esperto e il sapiente non vorrà a forza possedere più di chi gli è simile, bensì di chi è dissimile e contrario. È evidente. E allora, o Trasimaco, dissi io, non è forse vero che l'ingiusto cerca a forza di possedere più di chi gli è simile, ma anche di chi è dissimile? Non dicevi così? Io sì, rispondeva. E il giusto non cercherà a forza di possedere più di chi gli è simile, bensì più di chi gli è dissimile. Sì, e allora osservai, il giusto ha somiglianza col sapiente e con l'esperto, l'ingiusto invece col malvagio e con l'ignorante. Forse sì, ma s'era d'accordo che ciascuno per sua natura è come colui al quale è simile. Certo, eravamo rimasti d'accordo. Ne consegue che il giusto è esperto e sapiente, l'ingiusto invece ignorante e malvagio. Trasimaco dette certo il suo assenso a tutte queste mie domande, ma non con la facilità con cui ora vengo raccontando la cosa. Si faceva trascinare e a malincuore, come sudava. Faceva per l'appunto un gran caldo, anzi, allora ho osservato che il volto di Trasimaco diventava rosso, una cosa che non gli capita spesso. Quando dunque finalmente fummo d'accordo che la giustizia è virtù e sapienza, l'ingiustizia invece è malvagità e ignoranza, allora io cominciai. E va bene, questo punto così è assodato, ma si disse anche che l'ingiustizia è forte. Non te ne ricordi più, o Trasimaco? Me ne ricordo, rispondeva, ma a dirti la verità non approvo nemmeno ciò che hai concluso. Avrei anzi qualche osservazione in proposito. Ma se dico due parole, tu giudicherai che monto sulla tribuna e che faccio un sermone. Insomma, o mi lasci dire secondo il mio talento, o se ti piace meglio interrogare, interroga pure. In tal caso continuerò a ripetere il ritornello, e va bene. Dirò anzi di sì e di no col capo, come si fa con la nonna quando racconta una favola. Così no, dissi, se devi rispondere contro la tua opinione. Farò come vuoi allora, dal momento che non mi lasci parlare. Vuoi un'altra cosa ancora? Nulla, replicai, e se vuoi far così, su via, rispondi pure, interrogerò io. E allora interroga. Ti voglio domandare la stessa cosa di prima, perché vorrei considerare la questione nel suo svolgimento completo. Qual è la giustizia in rapporto all'ingiustizia? Si disse, ricordi bene, che l'ingiustizia è più possente e più forte della giustizia. Ora invece, a dir la verità, seppur giustizia è sapienza e virtù, si dovrà ammettere, credo, che anche è più forte dell'ingiustizia, in quanto l'ingiustizia è ignoranza. Questo punto, mi pare, nessuno lo metterà più in dubbio. Ma il fatto è che la cosa non è così semplice, o Trasimaco. Desidero, per conto mio, considerarla nel seguente modo, pressa poco. V'è sempre, potrei dire, una città ingiusta che, a danno di talune città, inizia ingiusta politica di asservimento. Altre, recentemente domate, le tiene già schiave, mentre per talune l'asservimento risale a un periodo antecedente. Come no, replicava, la città più perfetta cercherà appunto di far questo, e tanto maggiormente quanto più completamente è ingiusta. Capisco, rispondevo, è la tesi che sempre hai sostenuto, ma sto considerando questa cosa ancora. Una città cerca di farsi superiore a un'altra, ma potrà conseguir questa potenza a prescindere dalla giustizia? Oppure le è necessario agire con giustizia? Rispondeva, se è come sostieni tu, che cioè la giustizia è sapienza, allora ci vorrà la giustizia, ma se invece come sostengo io, ci vuole l'ingiustizia. Oh bella, vedo che, Trasimaco, non fai soltanto cenno affermativo o negativo, rispondi molto bene, è per farti un piacere, obbligatissimo, ma allora devi aggiungere anche il seguente chiarimento. Una città, un esercito, una banda d'assassini, di ladri, o qualsiasi altro gruppo di uomini associati per commettere ogni ribalderia, potrebbero concludere qualche cosa se l'un con l'altro agissero in piena ingiustizia? Eh no, affatto, disse lui. E non credi che, se si astenessero dall'ingiustizia, farebbero meglio? Non c'è dubbio. L'ingiustizia, o Trasimaco, mi par bene, genera contesa, odio, battaglia reciproca. La giustizia, invece, concordia e amicizia. O non credi? Sia pure, disse, non voglio litigare. Hai ragione, ottimo amico mio, e ora dimmi la seguente cosa. Se questo è il frutto di ingiustizia, produrre odio dovunque si manifesti, non produrrà pure, manifestandosi tanto fra liberi che tra servi, odio reciproco, lite, impossibilità di compiere in comune qualsiasi impresa? Certo, sì, e interponendosi tra due persone, Non saranno in perpetua discordia? Non nutriranno odio e nemicizia l'uno verso l'altro e verso gli altri giusti? Si capisce, rispondeva. E qualora, immenso amico mio, venga a trovarsi in uno solo quest'ingiustizia, finisce col perdere la propria virulenza o credi che nulla meno la mantenga? Ebbene, la mantenga nulla meno. E allora si vede perfettamente quanta ne sia la potenza, tanta che dove viene a interporsi, città, famiglia, esercito, qualsiasi altra cosa, intanto, prima di tutto, rende questa cosa per dissidio interiore e per continua discordia incapace d'agire in se stessa. Inoltre, la fa nemica con se stessa e con ogni cosa che gli sia contraria e giusta. Non è così? Si capisce. E nell'individuo pure produrrà gli stessi effetti che naturalmente produce. Intanto lo renderà inadatto a qualsiasi azione, in perenne discordia con se stesso, da ultimo nemico a sé e ai giusti. Non credi? Sì. E giusti naturalmente sono anche, o amico, gli dèi. Sia pure, rispondeva. E allora l'ingiusto sarà nemico agli dèi, o Trasimaco, il giusto invece amico. Cibati pure a tua volontà e con tutta pace, rispondeva, di queste teorie. Oh, non voglio fare opposizione, per non rendermi odioso a costoro. Avanti dunque, ripresi, continua come ora e faremo completo il banchetto. Più sapienti, migliori e più capaci d'azione sono i giusti. Gli ingiusti invece non riescono a compiere insieme nessuna impresa. Ciò abbiamo dimostrato. Del resto, coloro stessi che pur essendo ingiusti sono capaci di qualche vigorosa impresa in comune, ebbene, nemmeno questa concessione era legittima, perché se fossero completamente ingiusti, non s'asterrebbero certo dal farsi reciproca offesa. Insomma, è chiaro, vi è nei loro rapporti qualche barlume di giustizia, per opera della quale non arrivano a farsi reciproco oltraggio e ingiustizia, nel momento stesso in cui si accingono a portare ogni danno ai nemici. E soltanto per questa ragione è concesso a costoro di compiere ciò che compiono. Insomma, si volgono a ingiuste imprese solo a metà malvagi, perché i completi malvagi e gli uomini totalmente ingiusti sono anche completamente e totalmente incapaci di qualsiasi azione. Tutti questi dati di fatto si spiegano perfettamente con le mie teorie, non certo se si ammette la tua tesi. Ora è da considerare se vivono meglio e se sono più felici i giusti degli ingiusti. Ciò del resto abbiamo già stabilito di fare. La conclusione, sin da ora, come mi pare almeno, si dimostra probabile, ma bisogna guardar meglio. Non si discute, vedi, su cosa di poca importanza, ma sulla regola secondo la quale dovremo vivere. E tu guarda pure, rispondeva. Appunto, sto guardando. E tu mi devi aiutare. Il cavallo ha una propria particolare funzione. Cosa ti pare? Mi par di sì. E questa funzione, vuoi del cavallo, vuoi di qualsiasi animale, la si può compiere soltanto, o almeno nel modo più perfetto, per mezzo di quel certo animale. Non capisco, rispondeva. Senti un po', c'è qualche altro organo con cui si vede, se ne escludi gli occhi? No, certo. Si ode con altra cosa che non siano le orecchie? No, certo. E non sarebbe giusto dire che vista e udito è la funzione di questi organi? Si capisce. Dimmi allora, i tralci d'una vite si possono tagliare con una spada, un coltello o molti altri strumenti, è vero? Come no? Ma, penso io, bene soltanto col falcetto, formato a questo scopo. È vero. E non dobbiamo forse ritenere questa la funzione sua peculiare? Riteniamo pure. Adesso sì, potrei meglio intendere ciò che ti chiedevo, e ti chiedevo appunto se in ciò consistesse la funzione peculiare d'una cosa singola, quella funzione cioè che una qualche singola cosa produce o unica o meglio delle altre. Capisco benissimo, e mi pare che la funzione di ciascuna cosa consista in quello che dici. E va bene, dissi. Non ti pare allora che ciascuna cosa alla quale è assegnata una qualche funzione abbia pure una particolare sua virtù? Su via, rifacciamoci agli esempi di prima. Diciamo che vi è una funzione degli occhi, è vero? C'è. E non c'è anche una virtù degli occhi? Anche una virtù. E senti, c'è pure, dicevamo, una qualche funzione delle orecchie. Sì, e allora anche una virtù. Anche virtù. E cosa ne dici per tutti gli altri casi? Non è lo stesso modo? Così. Basta. Ti pare ora che gli occhi potrebbero compiere bene la loro funzione se non avessero la propria virtù? Se invece della virtù avessero qualche difetto? Come lo potrebbero? Rispondeva. Vuoi intendere forse che ci sarebbe non più la vista, bensì la cecità? Senza voler determinare esattamente quale sia questa virtù, non è questo l'argomento che mi interessa, ti domando soltanto se con la loro particolare virtù le cose adempiano, quando siano adoperate, la propria loro funzione, se col vizio invece ciò si adempia malamente. Questa, rispondeva, la conclusione vera. E non è forse vero che anche le orecchie private della loro virtù malamente compiono la loro funzione? Si capisce, e non dobbiamo forse porre tutti gli altri casi nel medesimo novero? Mi par di sì. Avanti allora, sta attento a quello che segue. V'è certo una qualche funzione dell'anima a lei caratteristica. L'anima soltanto la può esercitare, intendo applicarsi, dominare, decidere e tutte le altre operazioni del genere che non si possono legittimamente attribuire ad altro che non sia l'anima. E non si deve proprio dire che sono proprie dell'anima? A nessuna cosa diversa si possono attribuire. E ancora, non diremo che il vivere è una funzione dell'anima? Certamente, rispondeva, ma dobbiamo anche ammettere che vi è qualche virtù propria dell'anima. Sì. E credi che l'anima potrà mai compiere la propria operazione se priva della propria virtù? O non è impossibile? Impossibile. Necessità è dunque che l'anima cattiva eserciti un cattivo governo e malamente si prenda cura di ciò che deve fare. L'anima buona, invece, potrà adempiere bene ad ogni sua operazione. Necessità. E non risulta forse che virtù dell'anima è la giustizia e ingiustizia ne è il vizio? Sì, risulta. In conclusione, l'anima giusta e l'uomo giusto bene vivranno, malamente l'ingiusto. Par di sì, dati i tuoi argomenti. Ma allora, chi vive bene sarà felice e fortunato, chi no sarà il contrario. Come no? Dunque, il giusto fortunato, l'ingiusto infelice. Sia, rispondeva, ma è chiaro, essere infelice non è un vantaggio, bensì è vantaggio essere fortunato. Come no? Allora, in nessun caso, mio carissimo Trasimaco, l'ingiustizia è più vantaggiosa della giustizia. Che bel banchetto, non è vero, Socrate? Per merito tuo, replicai, tu me lo hai imbandito. Sei diventato così mite e hai smesso di far violenta opposizione. Tuttavia, il gusto del convivio non l'ho potuto goder completo, e ciò per colpa mia, bada, non per colpa tua. È avvenuto per me come per certi golosi che a soddisfar la gola tirano giù dal piatto, mentre vi ha portato in giro, prima d'aver fatto giusto onore alla precedente portata. E io ho fatto lo stesso, prima di aver trovato il primo oggetto della nostra indagine, che cosa sia cioè la giustizia. Mi sono gettato su questo problema qui. La virtù è malvagità o ignoranza, oppur sapienza e virtù? Inoltre, siccome discorrendo, in un secondo momento, siamo venuti ad accennare che più vantaggio ci dà l'ingiustizia della giustizia, non mi seppi trattenere e passai da quell'argomento a questo. La conclusione, dopo tanto discorrere, ho finito per non saper più nulla. Dal momento, infatti, che non so cosa sia la giustizia, come puoi pensare che io sappia se è o no virtù, se chi la possiede è fortunato o non è fortunato?